Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis e buone feste a voi tutti. Se vi dico self-driving car, auto che si guida da sola, a voi che cosa viene in mente? Molti, per esempio, si domandano che cosa faranno durante il viaggio non dovendo più guidare. Altri pensano a come questa tecnologia potrebbe migliorare la sicurezza stradale. Altri ancora si chiedono se sarebbero davvero pronti ad affidare a un robot la propria incolumità e pensano alle mille complicazioni legali in caso di incidente o anche di semplice infrazione. Pochi si concentrano sulle ricadute che la diffusione di veicoli autonomi potrebbe avere sulla mobilità e anche sui modelli di business del mondo dell'automobile, ed è esattamente ciò di cui ci occuperemo in questo speciale Smart City dedicato alle auto a guida autonoma, che come vedremo potrebbero davvero rivelarsi la chiave di volta di un nuovo tipo di mobilità. Ma andiamo con ordine. Pensate che la prima auto a guida autonoma risale al 1984 e fu progettata dal Robotic Institute della Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania. Nel 94 l'Università di Monaco e Mercedes-Benz portarono su strada due veicoli che percorsero più di 1000 chilometri in autostrada in condizioni di traffico standard e a una velocità che raggiunse anche i 130 km orari. Ma insomma, nonostante questi successi già della prima ora, se parliamo di modelli commerciali, nessuna casa automobilistica osa ancora oggi offrire veicoli capaci di totale autonomia in tutte le condizioni di traffico. Però l'accelerazione negli ultimi anni è assolutamente evidente e molti degli ingredienti base dell'auto che si guida da sola, come la frenata automatica e persino il pilota automatico in autostrada, hanno già fatto il loro esordio sul mercato. E allora ci chiediamo cosa cambierà per la mobilità, quali saranno i benefici delle self-driving car, oltre a consentirci di non stare tutto il tempo con gli occhi sulla strada e le mani sul volante. Ebbene, tra i centri più attivi nello studio delle possibili ricadute della diffusione delle self-driving car c'è il MIT di Boston, ed è lì che andiamo per incontrare il direttore del Sensible City Lab, Carlo Ratti, che ormai insomma è anche un po' un amico di Smart City. Buonasera Carlo. Buonasera. Allora, che cosa pensi di questa accelerazione? Intanto se veramente la self-driving car è vicina. Ma intanto io sì, direi ormai non è più una tecnologia di domani, è una tecnologia di oggi. Mentre noi stiamo parlando, varie città in giro per il mondo stanno sperimentando le prime flotte di macchine senza guidatore. Noi stiamo lavorando con Singapore, col governo, su uno dei primi esperimenti in cui questa flotta di macchine senza guidatore entro fine anno verrà data, proprio le chiavi in qualche modo verranno date ai cittadini. Così come altre città, da Pittsburgh a San Francisco, hanno flotte sempre più consistenti. Quindi in qualche modo la tecnologia è una tecnologia che sulle strade oggi è una tecnologia che è quasi pronta direi al 95% e che quindi cambierà radicalmente il nostro modo di vivere la città. Ecco, una domanda: perché l'industria si è buttata così a capofitto secondo te sulle auto che si guidano da sole? Perché c'è veramente una corsa, si direbbe. La cosa interessante, come dicevi prima, dell'auto che si guida da sola non è tanto il fatto di non dover tenere le mani sul volante, quello è un po' un effetto secondario. L'aspetto principale è il fatto che una macchina che si guida da sola permette di innescare nuove dinamiche nella condivisione. Nella condivisione, perfetto. Ecco, allora Carlo, a questo proposito ti faccio sentire un frammento di intervista a te e a tutti gli ascoltatori a Emilio Frazzoli, che tra l'altro è un tuo collega del MIT, mi pare che tu lo conosca bene, insegna aeronautica e astronautica, e a proposito di un esperimento svolto a Singapore. Sentiamo. Sì, noi a Singapore, questo centro di ricerca gestito da MIT con finanziamenti locali, abbiamo sviluppato nel corso degli ultimi anni una flotta di veicoli autonomi che include alcuni golf cart. Quindi, Quelle macchinette che servono per... Macchinette da golf, sì. E anche delle piccole city car. E questo diciamo è un filone di ricerca su cui molti stanno lavorando. Qui è interessante anche il modo in cui state utilizzando questi mezzi. Sì, in realtà questo progetto che abbiamo a Singapore non è un progetto semplicemente di robotica o per sviluppare tecnologie per queste macchine autonome, ma è un progetto sulla mobilità urbana. La domanda fondamentale che mi sono posto, ora sono 5 anni fa, è quella: assumendo di avere questa tecnologia a disposizione, di avere macchine che possono guidare in sicurezza da sole, cosa ci facciamo? Come cambieranno la nostra idea della mobilità urbana. E per me la risposta è la seguente: per me la killer app di queste tecnologie è esattamente quella di rendere il car sharing molto più facile da usare, molto più conveniente, anche se non penso che sia il termine giusto. Molto più comodo, probabilmente, semplicemente. Comodo, esatto, no? Cioè, sì, il vero problema del car sharing, esatto, è che devo cercarmi l'automobile, poi magari quando torno a casa con la spesa non la posso parcheggiare sotto casa. Ma se l'auto, esatto, viene da me, quando ho finito di usarla se ne va per i fatti suoi a cercarsi un parcheggio. Esatto, quindi questo qui è proprio quello che stiamo cercando di dimostrare, cioè che la tecnologia delle macchine autonome potrebbe rendere disponibili a chiunque dei mezzi di trasporto con la comodità di una macchina privata, ma anche la sostenibilità di un sistema di trasporto pubblico. Diciamo che possiamo proprio parlare di un mezzo pubblico individuale. Ecco, le ricadute quali sono? Naturalmente, benissimo, avremo un servizio di car sharing molto funzionante, magari ci compreremo un'auto in meno o addirittura ne faremo proprio a meno di comprarci l'auto di proprietà, e questo già, come dire, è uno scenario non da poco. Cambia anche qualcos'altro? Innanzitutto, se ci pensa, al giorno d'oggi ognuno ha una macchina, diciamo, personale. In realtà questa macchina viene utilizzata al più il 5% del tempo. Il resto, esatto, del tempo viene parcheggiata da qualche parte. Di solito in un posto dove dà fastidio, di solito, io dico. Almeno alla vista. Esatto. Quindi se passiamo a un modello in cui invece di utilizzare la macchina personale, soprattutto per spostamenti tipo andare al lavoro, andare a fare la spesa, cose del genere, si ridurrebbe moltissimo la richiesta di parcheggi, per esempio. Tra l'altro si utilizzerebbero molto di più e quindi avrebbero anche un tasso di aggiornamento tecnologico molto più rapido queste macchine, proprio perché vengono usate, esatto, esatto, più di frequente. Questo è un altro effetto, sì. Quindi si hanno meno macchine, che però queste macchine viaggiano di più, quindi in teoria avrebbero a sostituire più spesso, quindi si avrebbe un parco macchine che è molto più giovane, quindi anche con diciamo, più all'avanguardia, diciamo, in termini tecnologici e di sicurezza. Ecco, dunque Carlo, hai sentito, si è parlato di come con questo car sharing 2.0 servirebbero molte meno auto, meno parcheggi, però il ragionamento non è ancora completo. Voi lo avete spinto un passo oltre con un progetto che si chiama Hubcap. Ce ne vuoi parlare? Sì, assolutamente. Diciamo, i due meccanismi sono: il primo è quello che definiamo il car sharing dal punto di vista della condivisione del veicolo. Il secondo invece è la condivisione del viaggio, quindi ride sharing. E ride sharing vuol dire di nuovo il fatto che, avendo informazioni in tempo reale sulla posizione di tutte le persone, su dove uno vuole andare, a quel punto possiamo condividere i viaggi in modo più efficiente. Il nostro progetto, chiamato Hubcap, era proprio un esperimento fatto su New York per vedere quanti viaggi potrebbero essere condivisi a New York, ed è l'esperimento che poi è finito sul tavolo di Uber. Abbiamo iniziato a collaborare con Uber. Oggi in tutto il mondo Uber Pool permette di condividere due viaggi, e quindi condividere due viaggi vuol dire togliere un veicolo dalle strade, vuol dire ridurre l'inquinamento, vuol dire ridurre il traffico nelle città. Quante auto servirebbero se si applicasse car sharing in questa forma evoluta che voi avete studiato? Quante auto in meno, direi, servirebbero? Allora, questo è l'aspetto del ride sharing, quindi la condivisione del viaggio. La condivisione del viaggio a New York permetterebbe oggi di ridurre circa del 40% il numero di veicoli presenti nella città. Se a questo aggiungiamo l'altro aspetto, quello di cui parlava Emilio Frazzoli pochi minuti fa, che è l'effetto della condivisione del veicolo, un veicolo dopo l'altro, togliendoli dal parcheggio, ecco, la combinazione... Mettendo insieme questi due fenomeni, noi riusciremo ad avere una città come New York in cui potremmo portare tutte a destinazione esattamente quando devono essere a destinazione, ma con il 20% delle automobili che abbiamo oggi. Quindi immaginate come diversa New York se tirassimo via 8 macchine su 10. Ecco, ma penso a New York, che non ha tanto problema della circolazione delle auto, penso a altre città, magari in Italia, dove veramente le auto assediano letteralmente la città. Quindi parliamo di qualcosa che può veramente cambiare il volto delle città. Ultima cosa: si collega anche al resto dei mezzi pubblici questo car sharing che stiamo immaginando? Sì, si collega assolutamente, perché in qualche modo crea un sistema di mobilità ibrido a cavallo tra mobilità pubblica e mobilità privata, un sistema in cui lo stesso veicolo dà un passaggio a una persona, poi un'altra persona, poi un'altra, quindi in qualche modo crea una nuova condizione, che non è più la condizione tradizionale, mezzo privato, mezzo pubblico, ma una serie di sfumature nel mezzo. Attenzione comunque anche al fatto che questo, se vogliamo, è una possibile condizione. C'è un altro aspetto che potrebbe in realtà portare le nostre città a una congestione molto maggiore, ed è il seguente. Oggi negli Stati Uniti una black car, quindi una macchina con conducente, costa circa $2 per miglio. Beh, secondo le stime che vengono fatte oggi, nel momento in cui si passa macchine senza guidatore, questo valore potrebbe scendere a 20 o 50 centesimi. E questo vuol dire che diventa più conveniente, più economico anche della subway, della metropolitana, di qualsiasi mezzo di trasporto di massa. E se allora noi immaginassimo che nelle nostre città tutti smettessero di usare i mezzi di trasporto di massa e iniziassero a utilizzare soltanto delle macchine senza guidatore, in tal caso potremmo in realtà trovarci in una situazione opposta, quella di più macchine sulle strade con un grandissimo ingorgo che blocca la città. Va bene, ci fermiamo per pochi minuti, adesso il traffico, poi ancora con la rivoluzione che abbiamo capito può avere anche qualche rischio delle self-driving car. Restate... Torniamo in studio, Maurizio Melis al microfono, riprendiamo la conversazione con Carlo Ratti, direttore del Sensible City Lab di Boston. Eccoci qua, Carlo. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo appena finito di spiegare come le self-driving car consentano la condivisione dell'automobile su una scala superiore a quanto possiamo fare oggi col car sharing, una specie di car sharing 2.0 che trasforma l'automobile da mezzo privato in pratica a mezzo pubblico. Ecco, car sharing però non vuol dire necessariamente auto elettrica, e mentre sappiamo quanto sia importante insomma l'auto elettrica per ridurre l'inquinamento, ma anche per aumentare la quota di energia rinnovabile nel nostro mix energetico. Oggi la mobilità elettrica fa fatica a sfondare. Volevo chiedere, secondo te, la diffusione dei veicoli autonomi darà una mano oppure dobbiamo aspettarci che le self-driving car saranno con la vecchia motorizzazione, insomma combustione interna? Ma, diciamo, le due tecnologie sono completamente separate, quindi da un lato l'elettrificazione e dall'altro il self-driving procedono su binari diversi. L'aspetto interessante però è che se immaginiamo dei sistemi self-driving, cui ci siano delle flotte che vanno in giro e che permettono di condividere meglio sia il passaggio sia il veicolo stesso, allora diventa anche più facile la ricarica, nel senso che a quel punto il veicolo può, finito un certo task, può andare a ricaricarsi e poi ricominciare a girare. Quindi in qualche modo, anche se sono due binari paralleli, il meccanismo self-driving permette più facilmente di pensare a sistemi elettrici e a semplificare la ricarica. Vediamo l'industria dell'auto. Un'industria dell'auto che forse non vende più ai privati, vende molte meno auto, le cambia più spesso. Insomma, che cosa cambia per l'industria dell'auto? Allora, innanzitutto sul numero complessivo dei veicoli ci sono stime diverse, però anche se noi possiamo effettivamente far girare una città piccola o grande con una percentuale delle macchine che abbiamo oggi, al tempo stesso queste macchine andrebbero più in giro. Oggi la macchina, come diceva prima Emilio Fazzoli, di solito è parcheggiata al 95% del tempo, usata negli Stati Uniti solo il 5% del tempo. Quindi lo useremmo di più e quindi il sarebbero da cambiare più spesso, quindi in qualche modo, secondo alcune stime, non cambierebbe così tanto il numero di veicoli prodotti nel mondo. Quello che cambierebbe è invece lo spazio, nel senso che avendone meno avremo bisogno di meno spazio per parcheggio, e quindi negli Stati Uniti ad esempio si libererebbe, secondo alcune stime, un'area grande quanto Porto Rico, che è l'area oggi occupata appunto da tutti gli spazi di parcheggio nelle strade e nei garage. Ecco, c'è un altro numero impressionante, è che in media l'83% della superficie pubblica nelle città è destinato alle automobili. Assolutamente, così come secondo Donald Shoup, che è considerato un po' il guru del parcheggio negli Stati Uniti, buona parte del traffico cittadino nei centri storici avviene oggi per cercare parcheggio, non tanto per andare da un punto A a un punto B, ma quanto poi per cercare un posto dove lasciare la macchina. Dicevamo dell'industria dell'auto. Ecco, tutto questo sull'industria dell'auto, quindi magari il numero totale di veicoli prodotti non cambierà così tanto, dovremo vedere, dipende da molte variabili. Quello che cambierà però saranno un po' chi saranno i player, chi saranno i protagonisti, perché oggi vediamo una convergenza tra tre protagonisti diversi. Da un lato l'industria dell'automobile tradizionale, dall'altro l'industria IT, e questo vuol dire Google piuttosto che Apple, comunque chi viene dal mondo IT e sta passando, se vogliamo, dall'elettronica oggi legata all'individuo come il telefono cellulare a un'elettronica che entra nella macchina che gli permette di guidare da sola. E il terzo il terzo protagonista, il terzo competitor in questa grande battaglia sono poi invece i gestori di flotte. Questo vuol dire qualcuno tipo Uber. Uber proprio in queste settimane ha iniziato la sperimentazione sia a Pittsburgh che a San Francisco di macchine che si guidano da sole, e quindi questi saranno un po' i tre protagonisti che si contenderanno questa torta nei prossimi anni, e bisognerà vedere proprio cosa succederà, che cosa, chi vincerà o quali alleanze si creeranno tra questi tre per sviluppare i nuovi modelli di mobilità. Ma tu vedi anche possibile che magari l'attuale industria automobilistica si converta in un'industria un po' di servizi, o rimane un'industria che produce esclusivamente beni? Ci saranno di sicuro dei grandi cambiamenti. Il terrore oggi dell'industria automobilistica è di restare un po' quelli che costruiscono soltanto un contenitore, ma che non hanno il controllo dell'intelligenza. Quindi la sfida oggi per tanti di loro è proprio di capire come essere in grado di gestire l'intero processo e non soltanto diventare i punti produttori di un contenitore che poi viene gestito da altri, che sono quelli che anche si relazionano all'utente finale. Dunque Carlo, c'è un ultimo tema di cui vorrei parlare con te, che è quello dell'accettazione di questi mezzi, che a sua volta è anche legato a quello della sicurezza, soprattutto della sicurezza percepita. Ti faccio sentire una voce. I got into truck driving in 2007. I like to travel the country. That's one of the reasons drivers get into the industry. They want to see the country. It's a big, beautiful place. Ecco, la voce che abbiamo appena sentito è quella di Walter Martin, che probabilmente è il camionista più rilassato di tutti gli Stati Uniti, perché ha appena consegnato 51.744 lattine di birra dopo un viaggio di circa 120 miglia sull'Interstate 25 percorsi a 90 km orari. Ma c'è un dettaglio: l'auto articolato della startup Otto su cui si trovava ha guidato tutto il tempo per lui. In pratica questo Walter Martin ha portato il tir sull'autostrada, poi si è accomodato sui sedili posteriori a leggere ed è tornato in scena solo quando bisognava uscire dall'autostrada. E insomma, Ratti, la vista del tir senza guidatore fa una certa impressione, c'è il video che circola. Volevo capire se tu credi che ci saranno problemi di accettazione. Ma i problemi di accettazione ci sono di sicuro, sono quelli che abbiamo vissuto tutti. Ad esempio, la prima volta che siamo saliti in vita nostra su uno di quei trenini automatici dell'aeroporto, e la prima volta è stata una sorpresa, è stato anche un po' di spavento, e poi la seconda volta invece siamo rimasti completamente rilassati. E la stessa cosa stiamo vedendo a Singapore, appunto, lavorando col governo su una delle prime flotte di veicoli autonomi messe in mano ai cittadini, in cui la prima volta le persone sono un po' preoccupate e hanno qualche timore, e la seconda volta invece entrano con un grande sorriso, ormai si fidano del sistema e non si preoccupano più. Quindi direi che questo penso che lo vedremo molto nei prossimi anni. Sarà importante gestire appunto l'aspetto dell'accettazione a livello della città, ma non credo che sia uno dei problemi, degli ostacoli più grandi. Anche perché forse se dovremmo partire dai dati attuali della sicurezza stradale, che non sono granché, abbiamo ancora 10 morti al giorno sulla strada in Italia, quasi 1000 feriti, 700-800 feriti. Mentre mi pare di poter dire che queste tecnologie della self-driving car stanno già entrando oggi a bordo delle auto proprio come sistemi di sicurezza. Quando ci salveranno la pelle un po' di volte, penso che non ci faranno più tanto paura. Quando l'auto ci frenerà e ci salverà magari da un impatto, non credo che avremo poi paura di salire su una futura auto, no? A guida autonoma. Sì, attenzione che il sistema, in cui programmare l'automobile implica anche delle scelte etiche. Quindi una delle grandi discussioni oggi in corso è quella su cosa succede se l'auto senza guidatore si trova ad un incrocio e ha la possibilità tra andare addosso a una persona, a un'altra, oppure andare contro un muro, certo, in qualche modo danneggiare il guidatore. Ecco, questi sono grandi problemi etici che dipendono dalla programmazione dell'auto, e quindi sarà importante capire anche come gestire in qualche modo il comportamento di questi sistemi autonomi. Sì, perché poi singoli casi che possono fare molto rumore rischiano magari anche di cancellare i benefici generali. Ecco, complessivamente quali potrebbero essere gli ostacoli alla diffusione delle self-driving car? Abbiamo parlato del tema dell'accettazione, cos'altro? Ma direi forse l'ostacolo ancora più grande da risolvere è l'ostacolo legato a tutto quello che è assicurazione, normativa, eccetera. Se qualche incidente, anche se meno, succederà di sicuro, e quindi la domanda sarà: in quel caso cosa succede? Chi è responsabile? E chi ha prodotto il veicolo? E chi l'ha comprato? E la società che lo gestisce? Ecco, queste domande sono domande a cui dovremo trovare risposta. E sì, poi un altro aspetto è che cosa succede se una di queste auto si prende un virus, perché naturalmente, essendo praticamente dei computer con le ruote, si possono hackerare. A proposito, se gli ascoltatori sentivano qualche rumore di fondo, è perché tu hai fatto questa intervista a bordo di uno di quei mezzi che rischiano di scomparire. È stata fatta in un taxi e a un certo punto pensavo che si volesse fermare e farmi scendere quando ho iniziato a parlare di Uber. Arrivavo ero in viaggio all'aeroporto a Torino. Va bene, grazie Carlo Ratti, direttore del Sensible City Lab del MIT di Boston. Grazie a voi, a presto. Ci fermiamo qui, appuntamento domani, nuovo speciale, parliamo di riqualificazione antisismica. Buona serata.